Conosciamo veramente tutto della Bibbia? Quali sono i misteri nascosti nel libro sacro dei cristiani? Quali informazioni sono state nascoste o cambiate? Ce lo spiega Alfredo Lissoni, insegnante di religione. Il cristiano che si avvicina per la prima volta alla lettura del suo testo sacro, la Bibbia, non sa che della Bibbia in realtà esistono ben 80.000 traduzioni differenti, cioè punti del testo sacro che sono stati modificati nel corso dei secoli e a volte cambiando anche aspetti fondamentali di quello che è il testo biblico. Per esempio, un episodio per tutti, il celebre cammello che doveva passare attraverso la cruna di un ago è una cattiva traduzione dal latino, perché il termine originale era camello, cioè una corda, la corda che veniva utilizzata dai marinai per legare le barche. Quindi la metafora era l'impossibilità di infilare una fune nella cruna di un ago. Il cristiano non sa che, ad esempio, di tutte queste manipolazioni si lamentò in passato Papa Giovanni XXIII, che fece notare che era sorta una grandissima confusione a seguito delle manipolazioni del testo biblico, tant'è che esistono diverse commissioni di studio teologiche che cercano di recuperare il senso originale. Di tutto questo non si parla molto alla gente, non se ne parla in chiesa, perché sono questioni strettamente teologiche. In un monastero a Santa Caterina in Sinai nel 1800 venne trovata una versione della Bibbia con ben 16.000 correzioni fatte a mano da una decina di traduttori, e queste traduzioni hanno creato diversi problemi, perché quando si va a scavare più nel dettaglio si scopre, per esempio, che non c'è l'inferno nella Bibbia, non c'è quella visione che ci è stata tramandata dai daguerrotipi di Gustave Doré, piuttosto che dalla pittura rinascimentale o da Dante Alighieri, ma c'era lo Sheol, questo regno buio dove la vera punizione non era il fuoco eterno ma la privazione della visione di Dio. Così come non c'è il paradiso come lo intendiamo noi nella Bibbia. Paradiso è un termine che viene dal persiano Pairideza, che indica un recinto alberato e che quindi va a ricordare il mito dell'Eden, dove sarebbero stati posti Adamo ed Eva. E questo è un termine che, quello del paradiso, nel Nuovo Testamento appare una volta sola in San Luca al 23.43. In realtà nella Bibbia si parla in più occasioni del regno di Dio che attende i giusti. Questo cosa vuol dire? Che non c'è un al di là per i cristiani? No, l'aldilà c'è, ma veniva interpretato come la visione di Dio, la luce. Tra l'altro è interessante scoprire che la parola Dio viene da una radice indoeuropea, div, che significa proprio la luce. Quindi il concetto della divinità associata alla luce c'è sempre stata. E non c'è neanche il purgatorio, che è stato inventato nel IX secolo ed accettato a pieno titolo nella dottrina cristiana solo nel 200. Ad esempio i protestanti rifiutano questo tipo di credenza. Non c'è nemmeno la creazione della Chiesa come una istituzione. Quando si chiede al cristiano, al fedele, dove sia detto, di solito viene citato l'episodio tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. In realtà l'episodio andrebbe letto tutto nel dettaglio, perché che cosa stava succedendo? In sintesi il racconto è questo: Gesù in mezzo ai discepoli dice chi credete che io sia, e i discepoli si sbizzarriscono in una serie di ipotesi: Elia redivivo, San Giovanni Battista resuscitato, solo San Pietro dice tu sei il figlio di Dio sulla terra, e Gesù gli dice tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Questo è servito al Vaticano per giustificare nei 2000 anni la propria esistenza. Il guaio è che il giochino Pietro e pietra funziona soltanto in italiano e in latino, quindi nella versione che fu scritta da San Gerolamo, la Vulgata, ma non funziona assolutamente in aramaico, quindi nella scrittura originale dell'epoca, dove Pietro si chiamava in realtà Kefas, cioè convinzione. Quindi la frase di Gesù fu tu sei convinzione, cioè la convinzione che io sono il figlio di Dio, e su questa convinzione io fonderò la mia ecclesia, la mia comunità. Comunità che in origine poteva essere di monaci erranti, quindi non una struttura con delle chiese e quant'altro. Tant'è che San Giovanni Battista si autodefiniva voce di uno che urla nel deserto. Perché? Perché questi monaci si ritiravano come eremiti nel deserto e lasciavano che fosse la gente ad andare da loro a predicare. Queste sono solo alcune delle molte manipolazioni che ci sono state nella Bibbia. C'è molto da capire, c'è molto da studiare ancora. questo nulla toglie peraltro alla fede, non toglie nulla all'esistenza di Dio, semplicemente stiamo parlando di un testo, ed è capitato anche con altri testi, che chiaramente in 2000 anni, a furia di essere stato scritto, ritrascritto e ritradotto, di diversificazioni, o se vogliamo essere cattivi, di manipolazioni, ne ha subite veramente tanto. Nulla toglie, ripeto, all'esistenza di un al di là, anzi, immaginare un paradiso come la luce fa il paio con tanti racconti che sono emersi a partire dalla seconda metà degli anni 50, con persone che erano state in coma e dicono di aver visto un tunnel e alla fine di questo tunnel la luce. Per cui il fatto che un al di là possa essere immersi nella luce divina, nulla toglie al fatto che si sia romanzato parecchio sul paradiso. Ma sono molte altre le parti che sono state cambiate sulla figura di Dio, sul ruolo di Adamo ed Eva, per esempio, su tante presenze che qualcuno potrebbe rileggere e rilegge in chiave ufologica. Bene, il nostro intento non è dissacrante, ma è semplicemente quello di capire, perché i tempi sono maturi, e quello che noi vogliamo fare è proprio andare a fondo di 2000 anni di storia per capire cosa è stato cambiato e quale fosse il racconto originale e che versione cronologica ne salta fuori. Il primo mistero riguarda la creazione dell'uomo. Così lo racconta il sociologo e ufologo Roberto Pinotti. Nella Bibbia ci troviamo curiosamente di fronte a una sorta di doppia creazione, perché se uno si legge attentamente la Genesi, vedrà che la prima parte della narrazione, appunto, della Genesi finisce con, da ultimo, sintetizzata in poche frasi, con la creazione dell'uomo e della donna. Quindi è abbastanza singolare vedere che successivamente il brano che segue, appunto, affronta invece la creazione dell'uomo e della donna in Eden. Eden, il giardino, è quindi un discorso un pochettino diverso, è specifico, e non si parla ovviamente di una creazione generale come è appunto stata indicata in precedenza. È quindi come se ci trovassimo di fronte a due cose diverse, una di carattere più generico e l'altra di carattere più specifico. In particolare va detto che il creatore, diciamo, dell'universo, del mondo, degli animali, dell'uomo che viene prima menzionato, è evidentemente quello che potremmo chiamare il Dio creatore, e di conseguenza Yahweh in quanto tale. Successivamente poi abbiamo viceversa Elohim, il quale si manifesta in Eden e poi ovviamente non soltanto crea appunto dalla terra, no? Adamo, non dimentichiamo che Adam è una parola che vuol dire terra, terreno, no? E poi da questo successivamente, con la storia appunto della costola che viene tratta dal maschio, appunto la femmina, Eva. Quindi tutto questo è abbastanza singolare, perché dà la netta impressione che ci troviamo di fronte a una narrazione in cui si dice che il creato, il frutto di un Dio creatore, in pratica vede il punto d'arrivo nella figura umana diffusa ovunque. Poi si mette a fuoco, per quello che riguarda esclusivamente la Terra, questo tipo specifico di evento, cioè l'intervento di una entità che ha una denominazione anche diversa. Non dimentichiamo poi che Elohim è anche un plurale, maiestatis, d'accordo, ma vuol dire soprattutto al plurale dei, perché Eloah è praticamente Dio, Elohim vuol dire dei. Quindi l'idea di molti che in effetti Elohim corrisponda al concetto di esseri che in qualche maniera abbiano, potremmo dire oggi, se non creato, quantomeno ibridato la forma umana sulla Terra, è tutt'altro che infondata. C'ha quantomeno un substrato sia linguistico e sia anche narrativo, sia anche mitologico. Tutto questo oggi viene ovviamente sottolineato da diversi autori, ma che diciamo ci possano essere state, ci siano tracce di presenze altre, quindi che nulla hanno a che vedere con l'uomo ovviamente, in un lontano passato, ma è almeno dal 1955 che se ne parla. Non dimentichiamo che il primo a fare un discorso simile è stato in America lo scienziato americano Morris Jessup nel suo magistrale UFOs and the Bible, UFO e la Bibbia. Poi da allora vari altri autori, dal francese Charroux, per poi andare a cascare sullo stesso nostro divulgatore molto popolare Colosimo, per poi arrivare a Erich von Däniken e giungere fino a noi con l'attuale Mauro Biglino, hanno poi rimarcato variamente il concetto che entità non umane non solo si siano manifestate nel nostro passato più volte, ma possano addirittura essere state all'origine di episodi come per esempio quello che viene definito teogamia, e cioè unione fra esseri superni e l'umanità. Non dimentichiamo che la Bibbia, nel sesto capitolo della Genesi, come pure in molti altri testi apocrifi, ci parla dell'unione degli angeli e degli anti, preposti da Dio al controllo dell'umanità dopo la cacciata dell'Eden, e le figlie della generazione di Adamo. Quindi esseri superni, compatibili con l'uomo, che copulano con le femmine umane e questi danno loro dei figli. Ma la stessa cosa, né più né meno, ci dice anche lo storico ebraico Giuseppe Flavio, che ci dice che tutti sanno in Israele che gli angeli, figli del cielo, si unirono carnalmente alle donne, che queste appunto dettero loro dei figli. Non solo, Giuseppe Flavio ricorda che la stessa cosa la dicono praticamente i testi dell'area culturale greco-romana, e in particolare ricorda la teogamia degli dei olimpici, che ogni 5 minuti si univano carnalmente alle donne, e ricorda sempre Giuseppe Flavio che in pratica il mito dei veglianti che si uniscono alle donne terrestri corrisponde in tutto e per tutto a quello che i greci dicono avere fatto i titani. Alieni nella Bibbia? E se la Genesi narrasse in realtà la colonizzazione del pianeta da parte di extraterrestri, ci crede il biblista Mauro Biglino, traduttore dei testi sacri, scettico sulla creazione. I famosi sei giorni non sono altro che la trasposizione delle sei tavolette dell'Enuma Elish, che è scritto in sei tavolette, e non è che sono, come dire, sei giorni come quelli che intendiamo noi, sono sei interventi fatti in successione, e in effetti sono interventi concreti, cioè sono quegli interventi che questi signori che la Bibbia conosce col nome di Elohim, che nelle tavolette sono conosciuti col nome di Annunna o Annunnaki, hanno fatto in un certo territorio. Poi questo è stato trasformato in atto creativo di Dio. Ma se noi leggiamo anche gli studi dei rabbini, ma pubblicati nei testi che vengono appunto editi per esempio dalla Jewish Publication Society, New York, che quindi dove li scrivono soltanto rabbini, docenti universitari nelle università giudaiche, insomma sia americane che israeliane. Per esempio, non so, c'è il rabbino che è docente di studi biblici a Tel Aviv e al seminario teologico di New York, dove dice che in realtà il cosiddetto racconto della creazione nel libro della Genesi non è altro che la descrizione di una serie di suddivisioni. Cioè, quindi non è creazione, anche perché bara in ebraico non significa creare, significa intervenire in una situazione già esistente per modificarla. E in effetti la Genesi non è altro che il racconto di una serie di suddivisioni, cioè di separazioni che questi hanno operato per porre ordine in un territorio. Forse la creazione di Adamo ed Eva non è un mito. Potrebbe essere il ricordo deformato dal tempo di un'operazione di ingegneria genetica da parte dell'alieno, che la Bibbia chiama Elohim, il parere di Roberto Pinotti e Mauro Biglino. Per quanto concerne la creazione di Adamo ed Eva da parte di Elohim, diciamo che la creazione di Adamo denota anche solo col nome Adam Terra il fatto che sulla Terra si è creato un essere a immagine e somiglianza di Dio, e questo è interessante perché in pratica indica il fatto che noi saremmo una sorta di copia dei nostri creatori. Poi il fatto che la donna sia stata realizzata prendendo un quid da parte ovviamente degli Elohim nel maschio per utilizzare evidentemente il DNA di questo e quindi dare origine a un essere femminile, anche questo è molto interessante dal punto di vista genetico, perché poi segue un po' gli stessi schemi scientifici che oggi noi sappiamo essere all'origine di un fenomeno simile. Quindi potremmo parlare evidentemente o di clonazione o di ibridazione a scelta. Non è certamente facile optare per l'una o l'altra delle due soluzioni, però una cosa è certa: sarebbe apparentemente evidente il fatto che qualcuno ha manipolato sicuramente la vita sulla Terra, orientando ovviamente la specie dominante sul pianeta Terra verso una forma umana che poi siamo noi. La Bibbia in ebraico dice che hanno preso un qualcosa da una parte laterale ricurva, e lì lo descrive dicendo che prima di fare questo prelievo hanno indotto nel maschio un sonno profondissimo, poi hanno fatto questo prelievo, poi hanno chiuso la carne dove hanno fatto il prelievo, poi con quello che hanno prelevato hanno fabbricato Eva. Questa è la chiarissima descrizione di un mini intervento chirurgico. Ora, una parte laterale ricurva può indicare ovviamente sia una costola, si prendono le cellule staminali che sono quelli polivalenti, proprio quelle che si usano per la clonazione o comunque per produrre anche per interventi terapeutici eccetera, oppure l'altro punto da cui attualmente con un piccolo intervento chirurgico che comunque prevede un po' di anestesia e prevede poi una piccola sutura, è la cresta iliaca, anche questa è una parte laterale ricurva. Quindi pare proprio che la Bibbia ci abbia lasciato il ricordo, la descrizione di un vero e proprio mini intervento chirurgico per un prelievo di quello che noi possiamo immaginare essere state cellule staminali con le quali hanno proceduto con la clonazione. Lo stesso mito era condiviso dai Sumeri. Lo scrittore Biagio Russo ritiene essersi trattato di un vero e proprio esperimento scientifico. Un testo che è quello di Enki Enigma, che dovrebbe essere del 2400 a.C., in scrittura accadica, quindi assiro-babilonese, ma dai cui termini inseriti i traduttori ne fanno un'origine ben più remota ai Sumeri, che i due signori Enki e Enigma, che facevano parte del Pantheon sumero per comprenderci, dopo aver fatto una serie di tentativi di manipolazioni, permettetemi il termine genetiche, no? Che è un termine forte, ma che solo oggi possiamo usare perché lo capiamo e stiamo facendo cose simili. Beh, dopo aver fatto dei vari tentativi su un essere esistente che si presume dai risultati degli studiosi essere l'Homo erectus, sono arrivati alla determinazione di un nuovo essere che era il neandertaliano o Homo sapiens. Non c'è stata una creazione ex novo, ma c'è stata una spinta, un'accelerazione all'evoluzione del genere umano. Beh, eccoci al punto. In quel testo c'è scritto che la signora Nimma, che grazie poi ai risultati che ha ottenuto verrà chiamata Mani, e anche questo è bellissimo perché è il termine che usiamo quasi in tutto il mondo per indicare le nostre mamme, fece sette pani di argilla maschi e sette pani di argilla femmine. Quindi creò uomo e donna contemporaneamente. È quindi possibile un parallelismo con altri testi antichi? Ce lo conferma lo scrittore e studioso di testi indiani, Enrico Baccarini. Ovviamente di certezze non ce ne sono, ma quello che è il racconto biblico, soprattutto nella traduzione letterale che in questi ultimi anni è stata fatta, i parallelismi con quella che potrebbe essere stata anche una vera e propria manipolazione genetica sono fortissimi, soprattutto anche a fronte di alcuni studi fatti da genetisti italiani e stranieri, dove vengono ravvisati appunto degli elementi specifici che vengono raccontati, sono presenti nel racconto biblico, e in cui si parla di come Adamo ed Eva furono creati. Ci sono dei fortissimi parallelismi anche con altre civiltà, con altre culture, in particolar modo con quella sumera, dove i racconti epici più antichi su tavolette cuneiformi, quindi si parla delle origini dell'umanità, dell'alba, delle civiltà che hanno segnato almeno negli ultimi 10.000 anni il nostro pianeta. Nel caso sumero si parla ad esempio di divinità che volevano creare quello che era una vera e propria manovalanza di esseri, quindi l'uomo, e non ci riuscirono subito, ma fecero diversi esperimenti che in buona parte dei casi, almeno all'inizio, diciamo riuscirono male, e alla fine riuscirono a creare un uomo, un essere vivente che assolveva tutte quelle che erano le loro necessità, quindi lavori pesanti sul nostro pianeta, perché viene identificato proprio il pianeta Terra come un luogo miniera dove queste divinità avevano bisogno di vari materiali, tra cui l'oro e altri materiali appunto, e quindi creano quello che noi conosciamo oggi come razza umana. Ovviamente si parla di miti, sia nel caso sumero sia nel caso biblico, però in ambo le situazioni ci si trova davanti a qualcosa di curioso, cioè al fatto che non c'è una divinità o non ci sono delle divinità potenti al punto tale di creare subito un essere umano, ma soprattutto nel caso sumerico vengono fatti vari tentativi fino a quando non si riesce a realizzare quello che è l'uomo in senso proprio. Se ci spostiamo nei testi vedici, quindi in India, la situazione è nettamente diversa, perché non ci sono queste situazioni, non c'è una creazione sullo stile biblico, quindi un Adamo ed Eva indiani, né tantomeno degli esperimenti, chiamiamoli così, o delle prove per realizzare un uomo, ma l'essere umano nasce in quanto tale, secondo la tradizione indiana, dal pensiero, da un'emanazione del Brahman, che sarebbe l'essere supremo per gli induisti, inconoscibile, inarrivabile, e quindi già dall'alba dei tempi l'uomo viene creato, nasce in quanto tale, per cui senza l'apporto di sperimentazioni o senza neanche dei grossi parallelismi con quello che appunto è il racconto biblico. Un altro passo della Genesi fa discutere da secoli gli studiosi. I figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, le presero in moglie e generarono i giganti. Lo scrittore Manuel Paroletti sostiene che si trattasse di creature reali, le cui tracce sono sparse in tutto il mondo. Yeah. chiesa di San Salvatore, dove tuttora dietro una massiccia grata sarebbero gelosamente custodite e perché no nascoste ossa umane di dimensioni davvero enormi. Quindi ecco che la nostra terra è stata oggetto di scoperte importanti che sfidano questa teoria di cui si parla da tempo, la teoria secondo la quale i giganti sarebbero stati i primi padroni di questo pianeta e noi saremmo semplicemente i loro discendenti, anche se rimane da spiegare per quale motivo le nostre dimensioni corporee siano nettamente inferiori rispetto a quelle dei nostri antenati. Una spiegazione in tal senso è attualmente oggetto di elaborazione in Austria e precisamente a Vienna, dove vive il grande studioso Klaus Bohner. Klaus Bohner ha avuto la fortuna di ricevere 5 ossa di dimensioni davvero enormi e queste ossa provengono da Vienna, terra in cui nel 1992 è stato fatto il grosso scoperto più importante in assoluto per quanto riguarda gli ossa di Santa Maria Cristiana a Cattolino. Infatti, il 1994, il sacerdote sudamericano padre Klaus Bohner trova il mosaico nel Gigantesco, cosa può fare esattamente quando gli scienziati italiani, i quali un anno dopo, nel 93, avvalorano la scoperta compiuta da Vaca, sostenendo che il suo scheletro sia autentico. E allora padre Klaus Vaca smonta questo scheletro e ripone le ossa così ottenute all'interno di un armadio. Contemporaneamente però 5 di queste ossa vengono appunto affidate a Klaus Stoner, che le fa analizzare a Vienna e precisamente all'Università di Vienna, dove si riscopre qualcosa di veramente incredibile. 2 di queste 5 ossa sono rispettivamente un osso occipitale umano e una tibia. Fin qui tutto va male finché non ci si rende conto che quelle ossa, se inserite all'interno di uno scheletro umano, vanno a determinare delle dimensioni davvero ragguardevoli per quanto riguarda lo scheletro nel suo insieme. Infatti gli studiosi cinesi ricostruiscono lo scheletro in cui queste ossa si possono integrare nel rispetto delle debite proporzioni, ed ecco che viene quindi ricostruito uno scheletro alto meno 7 metri e 40 centimetri, uno scheletro veramente impressionante che oggi Ma quale era la vera natura dei giganti biblici? Lo spiegano Roberto Pinotti ed Enrico Baccarini. È singolare il fatto che dall'unione degli angeli con le donne della terra nascono appunto quelli che vengono chiamati nelle Bibbie tradizionali i giganti. In realtà questo termine non è corretto bene, perché in ebraico non si parla affatto di giganti, anche se poi si vede che le caratteristiche di questi esseri sono il fatto di essere di alta statura. No, si parla invece di Nephilim in ebraico, un plurale che viene da Nefel, che vuol dire cadere, e che quindi si può tradurre con il termine i caduti, o per quello che si può dire i figli dei caduti, perché in realtà i loro padri sono i Ben Elohim, i figli degli dei letteralmente, cioè gli angeli, e questo è chiaro, ma sono anche angeli che hanno contravvenuto all'ordine di Dio, ed erano 200, di limitarsi a controllare l'umanità. Questi a un certo punto stabiliscono un patto fra di loro, vengono meno agli ordini ricevuti, scendono sulla terra sul monte Hermon, fra la Siria e il Libano, dilagano appunto in Medio Oriente e si uniscono carnalmente alle donne belle e graziose della generazione di Adamo e cominciano a divulgare tutta una serie di conoscenze superiori a, appunto, alle loro compagne e ai loro figli. Ma i loro figli, i Nefilim, chi sono? Vengono indicati come gli uomini famosi dell'antichità, ma in realtà sono una sorta di semidei che noi troviamo d'altronde anche nella mitologia greca, sia pure in maniera più fiorita. Viene chiaramente detto poi nella Bibbia e anche in altri testi della tradizione giudaica che i Nefilim altro non sarebbero stati che dei monarchi oppressivi, e questo tra l'altro torna perfettamente anche con la stessa lingua ebraica, perché in ebraico il termine angelo, che deriva dal greco angelos, no? Messaggero, questo è il significato, deriva appunto dal termine maleach, che si scrive MLK, perché l'ebraico non ha vocali ma solo consonanti, e quindi è una stessa parola può avere più di una pronuncia. La cosa singolare è che il termine appunto maleach, angelo, nella stessa forma che ha scritta, cioè MLK, può essere anche pronunciato in altra maniera, e se viene pronunciato come Melech, ecco che vuol dire re, perché Melech in ebraico vuol dire re. Quindi si sottende tutto questo al fatto che in effetti i primi angeli, cioè gli angeli, furono i primi re delle popolazioni mesopotamiche. Poi naturalmente erano re oppressivi, tanto è vero che gli esseri umani si rivolsero a Dio lamentando questo, e Dio fece intervenire gli angeli a lui fedeli, Michael, Rafael, Uriel e altri, Gabriel, in maniera che questi imprigionassero i loro colleghi felloni e quindi ristabilissero un qualche tipo di ordine sulla terra. Poi tra l'altro lo stesso diluvio universale viene detto essere stato realizzato prevalentemente per eliminare i meticci dei Nefilim e i Nefilim stessi. I Nefilim in effetti poi furono sterminati da questo cataclismatico evento, anche se qualcuno si salvò, tanto è vero che quando successivamente Mosè e Giosuè dall'Egitto portano il popolo di Israele in Palestina, la Bibbia dice chiaramente che i Nefilim qualcuno ce n'è ancora, per esempio re Og di Basan, che aveva un letto di una lunghezza sui circa 3 metri, quindi doveva essere alto almeno 2,50 metri. Ma non solo, lo stesso David si scontra in campo aperto con Golia, che viene indicato come l'ultimo dei Nefilim, il quale militava nelle file dei Filistei ed era semplicemente un guerriero di inusitata statura che tutti temevano proprio per queste sue caratteristiche fisiche. Quindi in sostanza noi vediamo che questo fatto lo ritroviamo anche in epoca storica. Non solo, la Bibbia ci dice anche una particolarità abbastanza singolare: i Nefilim avevano 6 dita alle mani e 6 dita ai piedi. Questa era una caratteristica genetica che li contraddistingueva, e non in maniera sia molto chiara disarmonica, erano semplicemente caratterizzati da 6 dita alle mani e ai piedi. Per quanto riguarda i giganti biblici, sono molto interessanti i riferimenti che troviamo nella Bibbia. Anzitutto si parla di, soprattutto nei libri di Enoch, che sono 3, sono degli apocrifi dell'Antico Testamento, si parla, come nel Vecchio Testamento, di esseri che certe tradizioni dicono furono scacciati da quello che viene chiamato il paradiso, comunque dei piani superiori, ma nei libri di Enoch si dice proprio invece che questi esseri, che erano 200, un numero specifico, deliberatamente scelsero di scendere sul nostro pianeta e quindi di vivere una vita diversa da quella che avevano vissuto fino a prima. Sono esseri dagli enormi poteri, ci vengono descritti nel libro di Enoch, e scendono, secondo le tradizioni, sul monte Hermon, che si trova tra il Libano e il nord della Palestina attuale. Un monte Hermon che curiosamente ancora oggi viene chiamato, secondo i locali, il Monte del Giuramento, e sulla sua sommità si trova un'antichissima roccia che viene chiamata la Pietra del Giuramento, cioè quel luogo in cui questi esseri discesi dal cielo, come ci raccontano le tradizioni dei testi di Enoch, scelsero e giurarono di rimanere sul nostro pianeta, di unirsi con le donne umane, quindi dare origine a una nuova progenie, e da questa progenie nascono quelli che sono definiti giganti biblici, quindi una sorta di meticciato tra angeli, secondo quello che è il Vecchio Testamento, e la razza umana. Ci sono degli interessantissimi parallelismi anche con il mondo greco, con i teoi greci, quindi con le divinità greche che, come molti di noi sanno, insomma, nelle varie tradizioni ci sono, lo stesso Zeus era solido a discendere appunto sul nostro pianeta, o comunque sia di manifestarsi per così divertirsi anche con tante donne, quindi poi avere figli con loro. Lo stesso avviene in quella che è la tradizione induista. Si parla molto meno di giganti, quindi di esseri di alta statura, ma quelle che sono le poche descrizioni che abbiamo, appunto, anche qui ci parlano dei Deva, che sono appunto le divinità indiane. Letteralmente Deva in sanscrito vuol dire essere luminoso, inteso come illuminato dalla conoscenza e dalla spiritualità, e anche qui abbiamo le stesse situazioni, questi Deva, questi esseri che nella tradizione indiana invece vengono identificati realmente come esseri provenienti da altri pianeti, poi divinizzati, perché i loro testi ci dicono così. Anche in questo caso i Deva si erano trovati, secondo i Purana, secondo anche gli stessi Ramayana e Mahabharata, che sono i due testi epici più importanti dell'India antica, erano scesi sul nostro pianeta, anche qui avevano avuto dei rapporti sessuali con le donne e gli uomini dell'India in questo caso, e in alcuni casi da questi rapporti appunto erano nati dei figli di altissima statura e dotati di poteri sovraumani, diremmo oggi, e questo poi dà origine a tutta una serie di miti, leggende e tradizioni che si trovano ancora oggi nell'India antica e che sono veramente interessanti. C'è da dire che è curioso, interessante e affascinante questi parallelismi. Ovviamente si può dire che tutto questo nasce da quello che erano i flussi nomadi dell'antichità, quindi spostamenti di popoli e quindi anche di tradizioni. Quello che stupisce in molti casi è che sia nell'Antico Testamento, sia nei libri di Enoch, sia nei testi indiani, troviamo però dei riferimenti talmente precisi a quelle che erano anche tecniche di, le definiremmo oggi, di ingegneria genetica, di manipolazione genetica, che lasciano così, insomma, senza parole. Quindi l'idea di fondo, ed è un'idea che sta negli ultimi anni prendendo sempre più corpo, è quella che questi miti in realtà nascondano, celino qualcosa di molto più concreto, e forse, uso il condizionale, ma comunque sia forse, contatti avvenuti all'alba dell'umanità tra esseri provenienti da altri mondi e quelle che erano varie popolazioni sul pianeta, quindi India, Grecia, Mesopotamia e zona biblica stessa. Come si spiega l'episodio del diluvio universale? Questo è il parere di Mauro Biglino. Intanto bisognerebbe riuscire a stabilire, cosa che peraltro alcuni rabbini scrivono, le differenze tra il grande diluvio, quello che è avvenuto alla fine dell'ultima glaciazione e di cui parlano i racconti dei popoli, dei continenti, di tutta la terra. Abbiamo più di 600 racconti del diluvio, e probabilmente il diluvio biblico, che potrebbe essere in realtà una sorta di alluvione locale procurata, e che sarebbe, come lo definiscono alcuni rabbini, il secondo diluvio, non il primo, quindi non quello grande, ma uno che potrebbe essere avvenuto, diciamo, nel quarto millennio, cioè diciamo intorno al 3500-3200 avanti Cristo, una sorta di alluvione procurata per proprio eliminare tutta una serie di individui che si trovavano in una certa zona, che erano i prodotti degli incroci tra gli Elohim e le femmine Adam, cosa che probabilmente non doveva avvenire. E quindi qui la Bibbia è un po' confuso, comunque può creare confusione nel momento in cui ci si fanno dei ragionamenti sopra. È un qualcosa che non è facilissimo da stabilire. Che ci sia stato una grande risalita delle acque del mare su tutto il pianeta Terra, ovviamente non hanno coperto tutta la Terra, perché non c'è abbastanza acqua, tra l'altro, nel sistema Terra per coprire tutte le terre emerse, e qui che però ci sia stata, e questo è documentato ormai dai ritrovamenti che si stanno facendo negli ultimi decenni, di importanti centri abitati, grandi costruzioni che si trovano sulle coste dell'India, sulle coste del Giappone, eccetera, che si trovano adesso sommersi da 90-100 metri di acqua, che quindi sono quella che ovviamente è risalita e quindi ha coperto delle civiltà costiere che sono scomparse probabilmente con l'arrivo della fine dell'ultima glaciazione, quella di Würm, e quindi con lo scioglimento dei ghiaci e l'innalzamento di 90, 100, 120 metri delle acque del mare. Yahweh chiedeva sacrifici umani. Perché? Ce lo spiegano Alfredo Lissoni e Mauro Biglino. Il Dio della Bibbia in realtà non è uno, perché nei testi originali ci sono tanti nomi, quindi stiamo parlando di diverse entità. C'è Yahweh, egli è, c'era Adonai, che significava mio signore, c'era Yahweh Sebaot, il signore degli eserciti, c'era El Elyon, il Dio altissimo. Cos'è successo in seguito, negli anni a venire? Che con le varie traduzioni della Bibbia in latino, la Vulgata di San Gerolamo, si è cancellato ogni nome differente, si è usato semplicemente il termine Dio per tutti quanti, e quindi il Dio della Bibbia è diventato unico, ma in origine erano una moltitudine. Erano perfettamente umani, perché i testi sacri ci dicono che mangiavano, dormivano, bevevano, avevano delle mogli, che vengono indicate nell'Antico Testamento, e ci sono anche i nomi, venivano chiamate le Ayot e le Astaroth, termine che poi in seguito con il Vaticano è passato a diventare un sinonimo del diavolo in realtà. Quindi erano perfettamente umani, chiedevano sacrifici animali, chiedevano addirittura sacrifici umani, e questo per gestire con il terrore e la paura il proprio popolo, quindi non avevano nulla, ma assolutamente nulla di divino, erano semplicemente più avanzati tecnologicamente, e quindi le popolazioni primitive del posto li temevano per questo. Yahweh era uno degli Elohim, con questo preciso che quando io dico appunto che secondo me ovviamente Yahweh non è quel Dio onnisciente, trascendente, unico, eccetera eccetera eccetera, perché la Bibbia non ne parla, non intendo dire che Dio non esiste, ripeto, intendo solo dire che la Bibbia non ne parla. La Bibbia parla di questo Yahweh che dopo, dalla teologia, è stato trasformato nella figura di Dio. Se gli Elohim della Bibbia non erano dei, chi erano e cosa volevano? Gli dei dell'Antico Testamento erano molto violenti, si erano spartiti il pianeta, tant'è che l'episodio della Torre di Babele, che è così confuso e caotico nella Bibbia, nei testi ebraici viene raccontato diversamente, cioè si parla della popolazione di una zona ben precisa del Medio Oriente, che stufa della dittatura di Yahweh cerca di costruire una torre per andare a ucciderlo. Noi ovviamente non la conosciamo in questo modo, ma questo era il termine antico, e queste divinità avevano delle armi avveniristiche che facevano paura, delle tecnologie superiori. C'è per esempio il caso della visione di Ezechiele, raccontato dettagliatamente nella Bibbia, dove il profeta vede una strana macchina volante con delle ruote, degli occhi, delle luci, che un ingegnere della NASA, Joseph Blumrich, diversi anni fa ha cercato di ricostruire, e ha realizzato che si poteva trattare benissimo di un moderno razzo spaziale. E poi c'è la vicenda di Enoch, che è un caso molto particolare, perché della Bibbia Enoch ci dice soltanto che a un certo momento non fu più visto perché Dio lo prese, lo portò in cielo. In realtà esistono ben tre libri attribuiti a Enoch che la Chiesa non riconosce come autentici, quindi sono Vangeli apocrifi. Il vero nome di questi libri è Sefer HaKetalot, il libro dei santuari. I santuari sono i luoghi santi che questo patriarca avrebbe visto viaggiando nel cielo. Sappiamo anche chi era realmente Enoch: era un rabbino che si chiamava Ishmael ben Elisha, che è vissuto fra il primo e il secondo secolo d.C. Qualcuno pensa che addirittura fosse contemporaneo di Gesù, quindi potrebbero anche essersi conosciuti e scambiati dei segreti. Di Enoch abbiamo tre copie in tre diverse lingue del suo libro: una in aramaico, perché lui era ebreo, una in amarico, che è la lingua dell'antica Etiopia dove lui viveva, e poi una traduzione in greco che è posteriore. E che cosa racconta in buona sostanza Enoch? Che un giorno lui si trovava vicino al fiume Chebar in Etiopia, quando vide nel cielo apparire in cielo una strana macchina che era mossa dal fuoco e dal fulmine ed era guidata da degli esseri con i volti trasparenti come il cristallo. Questo è interessante perché sembra la descrizione di moderni astronauti. Questi esseri lo portano nell'universo, nel cosmo, gli fanno vedere tutta una serie di mondi abitati, gli spiegano quali siano le varie tipologie che abitano questi mondi, gli dicono delle cose strane, gli danno delle informazioni scientifiche che lui non poteva capire. Gli dicono ad esempio che se lui girava sul proprio tallone percorreva un angolo giro che è suddivisibile in 360 gradi. Gli dicono che loro pesavano le stelle in base al colore, che è una rappresentazione molto primitiva ma efficace di ciò che fanno oggi i nostri astronomi, cioè l'effetto Doppler: in base al colore emesso da una stella riescono a capirne e a valutarne la distanza. Ora, onestamente, un profeta vissuto migliaia di anni fa che si occupava esclusivamente di pastorizia e agricoltura, è molto difficile che potesse avere queste cognizioni. E questi esseri si presentano come gli Osannes. Questo è interessante perché abbiamo un altro testo collaterale, i testi sumeri, che parlano di questi Osannes, che vengono chiamati in maniera differente, vengono chiamati Oannes, erano considerati portatori della civiltà. Di loro parla un altro profeta, il sacerdote babilonese Beroso, che dice che questi Oannes venivano dal mare Eritreo, quindi la collocazione è sempre la stessa, l'Eritrea, e ci dice che avevano una doppia pelle come un corpo di pesce al di sopra per potersi muovere nelle acque, con una descrizione che può ricordare una muta da sub. Allora, questi esseri erano i portatori della civiltà e a Beroso, come a Enoch, rivelarono una serie di cose, di tecnologie. Ma gli dei della Bibbia, che dei non erano, in realtà avevano effettivamente delle tecnologie straordinarie. Una per tutti, quella che è passata più alla storia anche grazie a Hollywood, è l'Arca dell'Alleanza. Tutti ricordiamo il film con Indiana Jones. Dell'Arca dell'Alleanza ci viene detto che Mosè, su indicazioni precise di Dio, la costruì alternando strati di oro a pezzi di legno per realizzare una cassa che aveva un coperchio costruito in un modo molto specifico, con una ghiera tutto intorno, con degli anelli in basso attraverso i quali bisognava fare passare dei pali di legno. Perché? Perché l'Arca dell'Alleanza, se veniva toccata, dava delle scosse mortali. Successe ai figli di Aronne, che erano stati incaricati di custodirla. Capitò la stessa cosa al malcapitato Oza, che, vedendo un giorno che l'arca era portata in processione, stava per cadere, si fece avanti, stese le braccia per trattenerla e morì, ci dice la Bibbia, fulminato all'istante. Alla testa degli eserciti l'Arca dell'Alleanza spazzava via le popolazioni, lanciava dei fulmini e addirittura sappiamo che fu passata per 7 giorni attorno alle mura di Gerico, e le mura di questa città crollarono improvvisamente. L'aspetto interessante è che nel 1990 un archeologo canadese ha studiato le mura di Gerico e ha scoperto che sono crollate effettivamente come se ci fosse stato un gigantesco terremoto. Ma noi oggi sappiamo a grandi linee che cosa fosse l'Arca dell'Alleanza: non era pura mitologia, perché si comportava né più né meno come un condensatore elettrico, una pila di Leyden. Il fatto di alternare legno a oro faceva in modo che questo oggetto si caricasse elettricamente. Sappiamo che veniva lasciata in una tenda in un posto secco dove poteva raggiungere, grazie al campo magnetico, 600-700 volts, e quindi diventava una vera e propria arma grazie alla quale l'esercito di Mosè e tutti gli altri poi seguenti potevano sconfiggere i nemici e quindi conquistare quella fetta di territorio che il Dio, tra virgolette, della Bibbia aveva assegnato loro. Dell'Arca dell'Alleanza sono state dette tante cose, c'è chi l'ha cercata in Egitto, chi pensava fosse a Babilonia, tanti pensano che sia custodita in Etiopia nelle chiese dei copti, e nelle 300 chiese copte che abbiamo ognuna ha una copia dell'Arca dell'Alleanza. In realtà, stranamente, nessuno ricorda che nella Bibbia è detto chiaramente che il profeta Geremia, temendo l'invasione dei babilonesi e quindi il fatto che Re Sargon potesse acchiappare questa arma così pericolosa, farla sua, la nascose in una montagna, la fece murare all'interno di una grotta e in seguito non fu più in grado di ritrovarne l'ubicazione, quindi l'Arca dell'Alleanza di Indiana Jones andò perduta per sempre. Enrico Baccarini ha studiato a fondo i testi sulle Vimana. Le Vimana nella tradizione indiana sono un qualcosa di molto concreto fondamentale in tutte le tradizioni e i testi sia religiosi che epici e non solo. I Vimana sono, in parole povere, i carri volanti degli dèi, anche se le descrizioni che ce ne vengono fatte sono totalmente diverse dal tipico carro con le ruote. Sono macchine, sono strumenti che permettono agli dèi, ma anche agli uomini, di potersi spostare nel cielo o al di fuori della nostra atmosfera, era su altri pianeti. Il concetto induista di una vita nel cosmo su altri pianeti esiste da sempre, addirittura loro dicono che c'erano divinità che si spostavano di loca in loca, quindi di pianeta in pianeta. I Vimana per molto tempo, fino almeno a 50 anni fa, erano considerati solo il frutto del mito e della fantasia di questo popolo degli induisti. Gli ultimi 15, forse 20 anni di studi e ricerche stanno anche qui dando una concretezza a questi oggetti. Perché? Perché sono venuti alla luce, studiati, tradotti, analizzati, tutta una serie di testi che poi sono andati ad afferire nel mondo religioso, quindi vengono identificati come testi sacri o religiosi, ma che ci danno in molti casi delle descrizioni precise di come funzionavano, di come erano costruiti di mana e di quali erano anche le macchine al loro interno. Uno tra tanti è il Dimanika Shastra, che è osteggiato per oltre un secolo, in realtà si è scoperto negli ultimi appunto 10 anni che è un testo reale, concreto, che fa parte di una tradizione antichissima portata da bocca a orecchio, quindi a livello orale, nel mondo induista. La trasmissione delle conoscenze per gli induisti è sempre stata per via orale, poi a un certo momento, nel V secolo avanti Cristo, si inizia a mettere in forma scritta, ma quelle più importanti o comunque sia quelle più sensibili venivano ancora trasmesse solo da maestro a discepolo. C'è poi un altro testo datato al 1051, questi sono solo alcuni esempi, al 1051 d.C., che è il Samarangana Sutradhara, è fondamentalmente un testo di architettura dove si parla varie discipline, e questo libro, un capitolo in particolare che è quasi 200 pagine, parla proprio dei Vimana, delle yantra, delle macchine utilizzate a bordo di questi velivoli, e sono delle descrizioni totalmente tecnologiche, al punto tale che negli ultimi anni diverse università indiane, ma anche europee, hanno tentato, riuscendoci, di riprodurre quelle che erano le macchine descritte all'interno del Samarangana Sutradhara, del Dimanika Shastra e di altri testi. E quello che ne viene fuori è sconcertante, perché a livello universitario sono state ad esempio ricostruite delle leghe super leggere, ma allo stesso tempo super resistenti, in alcuni casi leghe che oggi definiremmo stilte, quindi invisibile radar. Sono state costruite delle macchine come uno spettrometro che ci permette oggi di studiare le classi spettrali delle stelle, quindi per catalogarle, e sono tutte strumentazioni che noi oggi abbiamo iniziato a ricostruire e a realizzare solo dalla metà, fine dell'Ottocento ad oggi. Un caso emblematico, forse il più bello tra tutti, è uno strumento utilizzato sui Dimana chiamato Chumbakmani. Questo strumento serviva praticamente per ricaricare il velivolo in volo, ed era un liquido che, se agitato ed esposto a luce solare, produceva elettricità. Sei anni fa il professor Sharon dell'Università di Bombay, che era docente di nanotecnologie, lo ha ricreato, e quello che è venuto fuori è che si tratta di un pannello solare in forma liquida, che noi ancora oggi non siamo riusciti a ricostruire, o non abbiamo voluto ricostruire. Però tutti questi dati, tutti questi elementi provengono da testi che hanno almeno 2500-2800 anni, momenti in cui appunto da tradizione orale vengono messi in forma scritta, e queste sono ulteriormente delle prove ancora più forti che nel passato più remoto della nostra umanità sono esistite realmente, sono prove provanti che nel nostro passato sono esistite delle tecnologie estremamente avanzate, e allo stesso tempo le tradizioni ci dicono che queste stesse tecnologie provenivano dai Deva, quindi da questi esseri che da fuori del nostro pianeta erano giunti fino a noi. I Vimana in particolar modo sono descritti in tantissime tipologie, ne sono stati identificati almeno 59 tipi diversi, alcuni che erano in grado di volare solo nella nostra atmosfera, in altri casi invece erano stati descritti come in grado di volare anche su altri pianeti, e altri dati e dettagli veramente interessanti che troviamo nei testi sanscriti sono per esempio la suddivisione degli strati dell'atmosfera e i consigli che in alcuni testi religiosi antichissimi vengono dati ai piloti, questo è il nome che gli viene dato del Vimana, di non, nel caso avessero utilizzato ad esempio un Vimana solo per il volo terrestre, di non andare oltre certi confini perché sarebbero potuti morire per assenza di ossigeno. Questo è aeronautica allo stato puro ed è una disciplina che, come tutti noi sappiamo, nasce alle origini del Novecento, per cui ha poco più di un secolo. Qui invece la troviamo in testi, come dicevo, che hanno più di 2500 anni. Sono dati, frammenti sparsi che negli ultimi anni si stanno mettendo assieme, stanno delineando un nuovo quadro, una nuova storia per l'umanità, o quantomeno per alcune zone geografiche della nostra umanità, dando forza a quella che è la teoria di un contatto avvenuto nel passato e quindi anche un apporto tecnologico, che nel passato certi esseri provenienti da altri pianeti hanno portato sul nostro. C'è da dire poi che vengono descritti in altri testi come il Surya Siddhanta, che è sempre indiano ed è uno dei più antichi trattati astronomici conosciuti al mondo. In questo testo viene descritto ad esempio le rotte che i Deva, le divinità, se mi si passa il termine, compivano nella nostra galassia. Già c'era il concetto di una galassia come ce l'abbiamo noi oggi, gli indiani la chiamavano Shishumar, e il Surya Siddhanta appunto ci descrive quelle che erano le rotte percorse per arrivare sul nostro pianeta. E anche qui ci sono tutta una serie di elementi, ne elenco solo alcuni tra i tanti, veramente affascinanti. Ad esempio viene indicata la zona vicino alla stella Betelgeuse come una zona in cui esistevano dei sistemi solari simili al nostro. Betel, nell'antica lingua ebraica, vuol dire la casa di Dio. Il nome sanscrito di questa stella è Arbra, che ha due significati: bagnato, umido e verde, quasi a volerci dire appunto che c'è forse acqua e alberi. La cosa curiosa è che negli ultimi anni la NASA, catalogando le stelle e le zone della nostra galassia che potrebbero ospitare pianeti e sistemi solari simili al nostro, ha visto proprio nelle zone prospicienti vicino a Betelgeuse una zona ricchissima, quasi sicuramente troveremo dei sistemi solari come il nostro, quindi compianeti simili alla Terra. E le tradizioni indiane, il Surya Siddhanta e altri testi religiosi, gli stessi Purana o Rigveda, che sono i libri più sacri del mondo indiano, ci parlano di Vimana, di altri pianeti abitati, e di Vimana, quindi di macchine utilizzate per spostarsi nel cosmo. È una tradizione che sembra assurda, ma è totalmente diversa dalla nostra. Per conoscere il mondo indiano bisognerebbe anzitutto visitare quei luoghi e capire come certe tradizioni, certi miti, anche se il termine è sbagliato, abbiano una loro concretezza in quel mondo lì, perché è totalmente diverso dalla realtà occidentale che conosciamo e che siamo stati abituati a vivere. E ancor più questi testi che, come dicevo, sono stati poi trasposti in chiave religiosa e anche spirituale, ma moltissimi dei testi indiani celano al loro interno tutta una controparte non solo storica, ma anche tecnologica e materiale, che dà ancora più forza a quello che è un'ipotesi nata molti anni fa, e concretezza alla possibilità che nel nostro passato appunto ci siano state visite da esseri provenienti da altri pianeti. Nella Bibbia, in effetti, si parla anche delle misteriose armi usate da Dio per punire i peccatori, come la misteriosa tempesta di fuoco. Mauro Biglino la spiega così. La tempesta di fuoco è quella che è caduta sulla città di Sodoma e Gomorra e su altre tre città, e che le ha distrutte in niente, cioè veramente in un attimo. Ed è una tempesta di cui parla non soltanto la Bibbia, quando racconta appunto di questi due inviati che sono andati dalla famiglia di Lot, il nipote di Abramo, a dirgli di allontanarsi dalla città perché loro il giorno dopo l'avrebbero distrutta. Ma parlano per esempio anche i racconti sumero-accadici, quando dicono che proprio su quelle cinque città mandò dal cielo una tempesta di fuoco e tutti gli esseri viventi di quelle città divennero vapore. L'episodio di Sodoma è stato studiato da Roberto Pinotti ed Enrico Baccarini, che hanno trovato straordinari parallelismi con episodi analoghi accaduti in India. Un mito abbastanza singolare in relazione alla presenza dei cosiddetti angeli nell'Antico Testamento è per esempio il fatto che a livello dei primi patriarchi abbiamo un Abramo, cui la divinità appunto si manifesta, che addirittura viene visitato da Dio e da due accompagnatori, che sono tre entità, le quali tranquillamente si fermano da lui, vengono da lui ospitate e mangiano e bevono alla sua tavola. Ora, è evidente che l'idea di Dio che viene a banchettare con te è abbastanza singolare, quindi questo ce la dice lunga sul fatto che diciamo gli angeli e Dio stesso, come vengono descritti nell'Antico Testamento, sono estremamente simili all'uomo. Aggiungiamo poi un'altra cosa: c'è l'episodio di Sodoma e Gomorra, che viene riferito in rapporto al patriarca Lot. Le cinque città della Pentapoli biblica erano in prossimità dell'attuale Mar Morto, e almeno due di queste erano caratterizzate da costumi assolutamente, che oggi potremmo definire perversi, perché non è tanto il problema della omosessualità che oggi comunemente viene così tirato in ballo, ma soprattutto il fatto che queste popolazioni praticavano comunemente la pedofilia e anche l'unione fisica con animali di vario tipo. Quindi francamente qualche cosa che chiamarla perversa è poco. Cosa avviene? Avviene che a fronte di questa perversione manifestata da queste genti, Dio rivela appunto ai patriarchi l'idea di distruggere queste città, e Lot viene avvisato. Gli vengono mandati due angeli, due uomini né più né meno come noi, chiaramente senza ali, perché le ali gli angeli non ce le hanno, siamo noi che nell'iconografia, riprendendo questo da immagini greche, gliele abbiamo incollate sulle spalle perché sappiamo che vengono dal cielo. Ecco, gli angeli vanno a visitare Lot e gli dicono di venire via dalla città di Sodoma, perché chiaramente Dio ha deciso di distruggerla. Se no che avviene un episodio abbastanza singolare. Quando loro vanno a trovare Lot, la casa di Lot viene assediata dai suoi vicini, i quali chiedono a Lot di dare loro i suoi ospiti, cioè i due angeli che sono in casa sua, perché loro vogliono praticamente abusare di loro. Naturalmente Lot, in nome dell'ospitalità, cerca di traccheggiare dicendo: no, prendete mia moglie, prendete le mie figlie, ma gli ospiti sono sacri. A questo punto i due ospiti dicono: non ti preoccupare, ci pensiamo noi, escono all'aperto, in qualche modo non si capisce come, ma questo viene detto dalla Bibbia, accecano gli assedianti, i quali non vedono più nulla a quel punto, e quindi loro, Lot e la sua famiglia, vengono fatti uscire e fuggono al di fuori di Sodoma. Si lasciano dietro la città e la città verrà distrutta, come dice la Bibbia, da zolfo e fuoco caduti dal cielo. La cosa interessante è che un mito simile lo troviamo anche nell'area culturale indo-ariana, perché in questa tradizione di origine addirittura vedica noi riscontriamo, come ci sono ovviamente anche nella Bibbia ogni piesso spinto, i carri celesti di Dio. E naturalmente in India questi carri celesti di Dio, o se preferite dei Deva, degli dei, vengono chiamati Vimana, che vuol dire semplicemente mezzo volante, né più né meno. Questi Vimana erano in grado di viaggiare per i cieli sia nella regione solare, no? Sia nelle regioni stellari, quindi in pratica venivano addirittura dalle stelle, volendo. Venivano utilizzati dai Deva per scendere sulla Terra, e alcuni di questi erano addirittura stati donati ai primi leggendari re della tradizione indo-ariana da queste divinità. Ma la cosa interessante è che c'è in varie fonti letterarie e storiche indù traccia evidente di queste macchine, perché poi sono macchine, né più né meno, che vengono descritte con tale ricchezza di particolari da non invidiare nulla alle attuali descrizioni dei mezzi aerei del nostro tempo. Addirittura viene detto che una di queste avrebbe distrutto con l'arma di Brahma lanciata su di essa la città di Lanka. Questo viene riportato nel Ramayana, l'epica indù di maggior conoscenza, no? Ecco, e oggi si ha ragione di ritenere che la città di Lanka altro non fosse che Mohenjo-daro, una delle due città della valle dell'Indo, che in realtà risulta essere stata bruciata, e che oggi si ha appunto ragione di ritenere che sia stata appunto in qualche modo distrutta da un'arma termica di grande potenza in quell'epoca lontana. È evidente che il collegamento con Sodoma è palese. Per quanto riguarda invece Mohenjo-daro, la questione è Sodoma, il parallelismo con la Bibbia, la questione è molto interessante, perché tutto nasce verso la metà degli anni 70 da un ricercatore, David William Davenport, è nato in India da una famiglia nobile di latifondisti del tè, poi andato in Inghilterra per studiare come ogni rimpongo di famiglia nobile, e poi è arrivato in Italia appunto verso gli inizi degli anni 70, dove poi morì giovanissimo. Davenport era rimasto affascinato da quello che era la nazione in cui era nato, quindi l'India, e inizia tutta una serie di studi cercando di capire se i testi indiani, non solo i testi religiosi ma anche i testi epici, avessero un fondamento di verità, quindi una concretezza storica, e questo lui, questo punto, questo assunto lui lo aveva preso da un fatto semplice, cioè che tantissime tradizioni, in particolar modo Ramayana e Mahabharata, una sorta di Iliade, Odissea indiani, vengono definiti da sempre in India come Ityasa, che in sanscrito vuol dire ciò accadde realmente, quindi eventi che realmente erano avvenuti nell'antichità e che poi erano stati, diciamo, infiorettati dalla prosa e dalla letteratura. Lui compie diversi viaggi in India, in Pakistan. Ricordiamoci che il Pakistan è una nazione recente, nata appunto da una divisione dall'India nel 1947, e grazie all'apporto, all'aiuto di vari docenti universitari indiani, lui dà forza a una sua tesi, cioè che la città di Mohenjo-daro, che oggi si trova appunto in Pakistan, appartenuta alla civiltà dell'Indo, civiltà Harappa, una delle prime civiltà che hanno solcato il nostro pianeta, fosse in realtà la città descritta nel poema epico del Ramayana, definita Lanka, quindi l'isola. Cosa succede? Lui si trova ad andare a Mohenjo-daro, analizza un sito di una città che era immensa, spopolata nel 2000 a.C., non si sa per quale motivo, ma abitata da almeno 100.000 abitanti. Mohenjo-daro si è quasi tutta preservata, salvo la zona sud. Nella zona sud del sito archeologico, ancora oggi, io ci sono andato nel 2012 per una serie di documentari e studi, la zona sud è totalmente distrutta da qualcosa. Ma la cosa ancora più interessante è che in questa zona sud c'è una sorta di pianura di 400 metri di diametro costellata da oggetti fusi e vetrificati. Non c'è una spiegazione a questi danni, a questi oggetti che erano all'origine basetti, bracciali in terracotta e argilla. L'unica spiegazione che negli anni 70 Davenport si dà e che anche oggi ci diamo è che questa zona di 400 metri di diametro fosse stata irradiata da una temperatura molto alta per pochissimi secondi, e già Davenport nel 78 preleva dei campioni, li fa analizzare dal CNR di Roma. Io personalmente li ho prelevati nel 2012 e le ultime analisi le ho fatte compiere pochi mesi fa, i risultati sono uguali, si tratta di monili, oggetti appunto in terracotta argilla che per un tempo non superiore ai 4-5 secondi sono stati esposti a temperature tra i 1500 e i 2000 gradi. Questo diede forza all'idea di Davenport, appunto, che la città fosse stata distrutta da una sorta di esplosione, spopolata prima e distrutta da questa esplosione. Ma la cosa ancora più interessante è che un'ulteriore prova sono i pochi resti umani trovati nel sito. Come dicevo, 100.000 abitanti, vengono trovati solo 43 scheletri. Di questi 10 sono calcinati, vuol dire praticamente esposti a una fortissima fonte di calore, tale da far evaporare la parte che noi volgarmente chiamiamo midollo osseo, quindi uccidendo all'istante queste persone. Tutti questi punti, uniti ad altre particolarità, anomalie nel sito di Mohenjo-daro, collocano appunto la città in un momento storico preciso che è il 2000 a.C. e collocano degli eventi che sono presenti nel Ramayana fisicamente, storicamente all'interno di questa città. Un fatto molto similare è avvenuto anche a nord del Mar Morto, quella che è la biblica Sodoma e che un archeologo americano, il professor Collins, sta studiando da almeno 15 anni. Il sito in questione si chiama Tal el Hammam ed è specularmente uguale al sito di Mohenjo-daro. Anche qui abbiamo un periodo storico preciso che è il 2000 a.C., una città spopolata e devastata da qualcosa che ancora oggi l'archeologia ufficiale non è riuscita a capire, e anche qui abbiamo una zona della città che è stata irradiata da una fortissima fonte di calore, portando appunto anche qui alla fusione e vetrificazione di quelli che erano oggetti di uso comune. Nel caso di Tal el Hammam, a nord del Mar Morto, addirittura le analisi ci dicono fatte da università americane ci dicono che la temperatura a cui questi oggetti sono stati esposti è stata vicina ai 6.000 gradi, quindi come la superficie esterna del nostro Sole. E gli stessi archeologi, anche in questo caso, come nel caso pakistano, non sanno darci una spiegazione. Ovviamente se noi raffrontiamo questi dati con quello che è il racconto biblico della distruzione di Sodoma e Gomorra, sembra che certi punti si colleghino. E ancor più curioso è il fatto che sia Mohenjo-daro in Pakistan che a Sodoma, nell'attuale Palestina, a nord del Mar Morto, abbiamo lo stesso periodo del 2000 avanti Cristo, e abbiamo tradizioni che ci parlano di lotte tra divinità, tra dei. Molto probabilmente erano esseri ben più concreti, e abbiamo gli effetti di quello che queste guerre probabilmente hanno causato. Quindi si inizia a dare una concretezza non solo storica, ma anche di elementi che suffragano sempre più un'ipotesi, una teoria, cioè che all'alba della nostra storia, 4.000-5.000 anni fa, siano avvenuti realmente degli eventi che poi si sono trasformati in miti e leggende, ma eventi che chiamano in causa quelli che poi sono diventati divinità o dei, ma che molto più probabilmente erano esseri che provenivano da altri pianeti, che si trovavano sul nostro e che avevano iniziato un percorso con varie civiltà che poi alla fine era giunto a degli scontri veri e propri, e quindi a delle guerre. E questi dati, questi elementi, sembrano dare ulteriore forza e sussistenza a questa teoria, che poi è l'ipotesi paleastronautica, che ha le sue origini più o meno negli anni 50 del secolo scorso. Che cosa c'è di vero nell'episodio delle piaghe d'Egitto? E Mosè ha veramente attraversato il Mar Rosso? Ce lo spiega Mauro Biglino. 25 dicembre, la nascita di Gesù Cristo, però anche la festa del Natalis Solis Invicti, quindi il sole invitto degli antichi romani, ma anche la nascita di Krishna in India, la nascita del dio Horus in Egitto, la nascita del dio Mitra in Persia e la nascita persino di una divinità messicana, Huitzilopochtli. E allora come si spiegano tutte queste nascite improvvise di dei lo stesso giorno che poi corrisponde al solstizio d'inverno? Mauro Biglino, traduttore dei testi sacri, ci può aiutare a fare luce in quella che potrebbe essere un patrimonio comune o una manipolazione di antiche tradizioni dell'umanità? Ciao Mario, dici tutto. No, allora senti, ma direi che insomma è chiaro che ovviamente noi parliamo di quello che riguarda soprattutto la nostra religione, cioè il cristianesimo, e è stata una attribuzione questa della nascita in corrispondenza del solstizio invernale d'inverno per ovviamente rendere accettabile questa figura, che rendere accettabile presso la cultura soprattutto ellenistica, quindi greco-romana del tempo, questa figura che doveva sostituire i culti precedenti, diciamo così, cosiddetti pagani. E quindi è chiaro che per sostituirli, così come è stato fatto con i cosiddetti luoghi sacri, no? Dove sui templi sono state costruite le chiese, eccetera, sulla data di nascita di molte di queste divinità, che ovviamente rappresentano il momento in cui, diciamo, la luce torna a prendere il sopravvento sulle tenebre, ecco, allora sulle date di nascita di queste divinità è stata inserita anche la data di nascita di Gesù Cristo, insomma della figura cristica, così come è stata elaborata e direi proprio inventata da Paolo di Tarso. Quindi è un'operazione precisa fatta proprio per far dimenticare altri culti e sostituirli con questo che ovviamente si andava imponendo e poi è stato imposto. Senti, veniamo invece, sempre restando al tema delle acque, al passaggio del Mar Rosso, perché qualcun altro traduce come passaggio del Mare di Canne. Com'è la realtà? Beh, la traduzione esatta è Mare di Canne. Io questo l'ho messo dall'inizio nei libri già forse 6 anni fa, perché in ebraico è Yam Suf, e Yam Suf è Mare di Canne, Canneto, che in effetti è quella grande zona di Paludosa, appunto di Canneti, che si trova nel nord-est del delta del Nilo, cioè nella zona in cui si trovava questa popolazione che poi ha abbandonato direttamente l'Egitto e si è spostata appunto per andare poi in terra di Canaan. E lì si trova appunto quello che in egiziano tra l'altro si chiama Batufi, che riguarda appunto, ricorda appunto il termine ebraico Yam Suf, peraltro anche un po' nel suono, ma che riguarda appunto questo grande canneto, il mare di canne, quindi quello che hanno attraversato è il mare di canne. E la cosa interessante è che questo mare di canne, dice la Bibbia, è stato parzialmente prosciugato, nel senso che si è aperta una secca che questo popolo ha utilizzato per attraversarlo, dopo che per una notte ha soffiato un fortissimo vento proveniente da est. Ora, questo stesso evento è stato rivisto da un ufficiale inglese che era a distanza lì nel 1860, prima che insomma scavassero il canale di Suez, quando lui, questo Alexander Tulloch, che era lì con i suoi soldati inglesi, ha scritto nel suo diario che in una notte ha soffiato un forte vento che arrivava da est. Questo forte vento ha liberato una secca larga un paio di chilometri, lunga 2 o 3 chilometri, se ricordo bene, nel suo diario, e veniva utilizzata dalle persone del luogo per appunto passare da una parte all'altra. Quindi diciamo è stato utilizzato un fenomeno naturale che la Bibbia descrive molto bene e che è stato ancora rivisto e nuovamente descritto nel 1860. Ma quindi Mosè è scappato alle armate del faraone semplicemente conoscendo un trucchetto per attraversare? Esatto, Mosè, che ha vissuto per molti anni in quel territorio lì, conosceva evidentemente molto bene questo fenomeno e quindi lo ha utilizzato, tant'è che appunto lui, se si legge bene la Bibbia, si vede che insomma il popolo che lui conduceva era arrivato ad un certo punto, poi lui dà l'ordine di tornare indietro perché evidentemente, conoscendo questo fenomeno climatico, sapeva di poterlo utilizzare e in effetti così ha fatto. Quindi non è andata come nel bel film di The Mill, I Dieci Comandamenti? Direi proprio di no. Quei due enormi muri di acqua sono, come dire, un bel prodotto della fantasia, che ha inteso trasformare in miracolo questo evento, che era un evento naturale. Ma tra l'altro, quando si dice nella Bibbia che l'acqua ai due lati faceva da muro, ora la parola ebraica indica anche protezione, cioè nel senso che se io attraverso una secca, questa secca ai due lati ha ovviamente l'acqua, e quest'acqua fa da protezione. Perché? Perché impedisce a qualcuno di aggirarmi, cioè di passare da un altro lato per arrivare davanti a me e fermarmi. Quindi è chiaro che quell'acqua che si trova ai lati fa da protezione, che possiamo definire protezione o muro, perché impedisce a chi mi insegue, no, di aggirarmi e di passarmi davanti per fermarmi. E quindi insomma tutto ha una, voglio dire, tutta la spiegazione ha una sua logica ed ha un senso molto molto concreto, insomma. Molto più prosaico. Ma allora le piaghe d'Egitto? Ma guarda, le piaghe d'Egitto sono un fenomeno che nel 1982, se non sbaglio, e 1984 si sono riprodotte tali e quali sul lago Nchose in Camerun, e sono il prodotto di fenomeni naturali, cioè di fenomeni tellurici, che esattamente come è raccontato nella Bibbia, che dice che questa cosa è avvenuta tra l'altro non in tutto l'Egitto ma nei canali dove viveva quella popolazione, quindi le acque che si arrossano per effetto dell'ossidazione, ovviamente i pesci che muoiono perché l'ossidazione priva l'acqua dell'ossigeno necessario alla vita dei pesci, le rane, che invece sono degli anfibi, hanno la possibilità di uscire e quindi le rane invadono il territorio circostante, la moria dei pesci, quindi la putrefazione dei cadaveri, porta alla formazione di tutti quei microorganismi che sappiamo sono presenti, no? Cioè allo sviluppo di organismi o anche di quegli insetti che immediatamente arrivano quando ci sono un grande fenomeno di putrefazione, questi microorganismi producono delle infezioni. E questo è descritto sia nella Bibbia, sia è avvenuto appunto in questo fenomeno sul lago Nchosi in Camerun, delle infezioni per esempio alla pelle di quelli che abitavano sulle rive del lago, fino ad arrivare a quella che è l'ultima piaga, insomma quella considerata più straordinaria, più incredibile, che è quella della morte selettiva dei primogeniti. Ora è chiaro che la Bibbia poi quando racconta, siccome vuole magnificare tutto l'evento, come fa anche per altre cose, lo esagera, lo ingrandisce, no? Come dire, lo racconta quasi con un'iperbole. In realtà, per esempio, lì sul lago Nchosi, una notte sono morti tutta una serie di individui che vivevano a piano terra nelle abitazioni, mentre quelli che vivevano nei piani superiori non sono morti. E la spiegazione che hanno dato gli scienziati, che è stata verificata, è che questi movimenti tellurici hanno prodotto quegli stessi gas che hanno poi ossidato l'acqua, sono usciti dall'acqua ma contenendo anche il monossido di carbonio, che è più pesante ovviamente dell'aria, quindi sono usciti ma rimanendo a livello del terreno, cioè 70-80 centimetri, un metro, per cui quelli che dormivano nei letti o addirittura per terra su tappeti a piano terra sono morti asfissiati, mentre quelli che stavano in alto no. Se pensiamo che i primogeniti in genere avevano il privilegio di dormire su delle brandine altre 30-40 centimetri, questo può farci ipotizzare come mai siano morti soprattutto dei primogeniti o quasi esclusivamente dei primogeniti, mentre altri che dormivano in posizioni meno agiate quella notte sono stati più fortunati. C'è un aspetto molto particolare nella vicenda di Mosè che porta gli ebrei in salvo dal faraone, quindi è l'episodio dell'esodo e della fuga del popolo eletto in Egitto, perché alcuni studiosi hanno notato un elemento interessante, che più o meno nello stesso periodo il culto del Dio unico così particolare presso gli ebrei era già sorto in Egitto, proprio in Egitto da cui proveniva Mosè, ed era il culto di Eknaton. Il faraone eretico Eknaton aveva proclamato il culto del dio Aton, il dio sole, il dio unico, e lo aveva fatto per combattere la troppo potente casta dei sacerdoti. Alla fine, in una serie di congiure di palazzo, era stato ucciso lui, era stata uccisa sua moglie Nefertiti, il figlio Tutankhamen, eccetera, quindi tutta la famiglia sterminata in congiure di palazzo. Il culto del dio unico fu cancellato, ma probabilmente non scomparve, perché il fratello di Eknaton, che si chiamava Tutmosis, sparì nel nulla, se ne sono perse le tracce. E alcuni ricercatori sospettano che in realtà Tutmosis, togliendo il Tut che significava in egiziano antico immagine divina, abbia cambiato il suo nome in Moses, cioè Mosè, e fosse lui il secondo sacerdote che portò il culto del Dio unico, in questo caso dagli egiziani agli ebrei, per cercare di portare avanti quello che era il piano di questa divinità che era venuta a conquistare quei territori della Palestina, del moderno Israele e anche dell'antico Egitto. Alla luce di quanto sinora detto, c'è da chiedersi se la Chiesa sia al corrente di questi studi e cosa ne pensi. Il parere di Roberto Pinotti. Per quanto concerne la posizione, diciamo, della Chiesa Cattolica a questo riguardo, intanto diciamo che in questi ultimi tempi vari esponenti di Santa Romana Chiesa si sono detti assolutamente aperti all'idea che non soltanto il cosmo sia assolutamente abitato, ma hanno anche rimarcato il fatto che questo fatto non è assolutamente in contrasto con le concezioni di Santa Romana Chiesa. Lo ha detto questo il gesuita americano padre Francis Connell già nel 1952, lo ha ribadito il gesuita padre Domenico Grasso sulla civiltà cattolica con dei famosi articoli. La civiltà cattolica, ricordo che è l'organo ufficiale dei gesuiti, lo ha ulteriormente sottolineato Monsignor Balducci, che è stato più volte anche in televisione fino alla sua morte. Lui era amico molto stretto di Giovanni Paolo II, ma poi ulteriormente dobbiamo ricordare che lo stesso direttore della Specola Vaticana, padre Gabriel Luis Funes, il giorno dopo essersi insediato al vertice dell'Osservatorio Astronomico del Vaticano, ha dichiarato che l'universo brulica di vita e che quindi non potremo un giorno non incontrare appunto esseri extraterrestri avanzati, quando questo avverrà, disse Funes, li dovremo considerare soggetti di diritto e nostri fratelli del cosmo. E non dimentichiamo che anche Monsignor Basti della Pontificia Università Lateranense ha dichiarato che se mai c'è un riferimento ad essere extraterrestri nell'Antico Testamento, questo è proprio nel sesto capitolo della Genesi, dove cioè si narra appunto della caduta degli angeli e della nascita dei Nefilim. Infine lo stesso attuale pontefice, cioè Papa Francesco, non dimentichiamo che in pubblica udienza 4 anni fa ha dichiarato che la Chiesa non si può sottrarre a nulla e che quindi se un giorno una delegazione di marziani, e tutti lo hanno guardato dicendo ma che sta dicendo, dovesse venire da noi, diceva appunto il Papa, spiegando che si parla dei marziani, quelli che i bambini immaginano appunto piccoli con le antenne e via dicendo, e beh, cosa mai potrebbe in tal caso fare la Chiesa? In realtà lui non ha dato una risposta, ma ha gettato un magnifico sasso in piccionaia, e questo lo si è capito anche e soprattutto quando 6 mesi dopo il nuovo direttore della Specola Vaticana, il gesuita americano Guy Consolmagno, ha scritto un libro intitolato Battezzereste un extraterrestre, presentandolo addirittura alla NASA. Quindi è evidente che la Chiesa sembra che stia mettendo le mani avanti su questo fronte. Non dimentichiamo che è attualmente nelle librerie il recente saggio del teologo tedesco Armin Kreiner intitolato Gesù, gli UFO e gli alieni, della editrice Queriniana, che è come se l'avesse editato il Vaticano. Quindi diciamo pure che la Chiesa è estremamente aperta a questa prospettiva e si direbbe quasi che si accinga a preparare la gente a una nuova visione delle cose. Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio uno e trino. Dagli spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste rimanda ad un essere che si comunica nella molteplicità e varietà degli elementi come in un'immensa sinfonia. È una cosa che non si poteva pensare. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, e alcuni di loro venissero da noi, marziani, no? Verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi come vengono dipinti dai bambini, no? E uno mi dice, ma io voglio il battesimo, cosa accaderebbe?